Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera vi parliamo di un'esperienza, si chiama City Logistics, che sta per partire a Firenze. Si tratta di uno di quei progetti per, diciamo così, coordinare e gestire con un numero ridotto di veicoli ecologici la distribuzione delle merci nel centro di una città. È qualcosa a cui si pensa poco, di solito identifichiamo la mobilità con quella delle persone. Invece l'impatto sull'ambiente della distribuzione delle merci è molto significativo. E questo progetto, che ricorda peraltro iniziative simili come per esempio la Veloce di Vicenza, di cui vi abbiamo già parlato, si trova però questa volta di fronte a una città di dimensioni decisamente più cospicue, e non sempre il fattore scala è indifferente. Protagonista di questo progetto che sta per partire a Firenze saranno le Poste Italiane, e per noi Chiara Albicocco ha intervistato il responsabile dei progetti Smart City delle Poste Italiane, Alessandro Leonardi. Sentiamo com'è andata. Sentiamo spesso parlare di interventi per la pedonabilità, per la ciclabilità dei centri urbani, ma consideriamo che uno dei fenomeni più impattanti sull'inquinamento urbano è proprio il trasporto delle merci dentro i nostri centri. Facciamo proprio un esempio. Lei intende dire che proprio nel cuore dei nostri centri ci sono dei negozi, e questi negozi vengono riforniti praticamente quotidianamente da furgoncini che portano la merce da vendere al dettaglio. Assolutamente sì, noi abbiamo mappato insieme al Comune di Firenze circa 2000 esercizi commerciali che insistono proprio nell'area ZTL, quindi a traffico limitato, dove di fatto il trasporto delle merci avviene addirittura con diciamo vettori, padroncini, quindi piccoli furgoncini che non distinguono tra la merce che viene consegnata nel centro rispetto alla merce che viene consegnata in periferia. Fanno un giro unico. Fanno un giro unico, sostenendo dei costi molto più alti dovuti al cosiddetto attraversamento, e di fatto poi andando anche a congestionare il centro urbano, poiché poi si aggiunge il problema delle soste delle piazzole di carico e scarico, si aggiunge il problema della presenza di pedoni. Firenze è abbastanza rinomata per essere una grande area pedonale, e quindi questo comporta una inefficienza proprio del sistema. E che soluzione avete proposto voi di Poste Italiane? Bene, allora noi di Poste Italiane abbiamo proposto essenzialmente una soluzione che parte da un'esperienza già fatta in casa, e cioè il fatto che noi come Poste Italiane ormai dal 2008 abbiamo avviato un progetto di elettrificazione della nostra rete di distribuzione. Noi quindi nei grandi centri urbani, nelle ZTL, ormai stiamo andando in consegna con mezzi elettrici, quindi quadricicli diciamo specificatamente progettati, oppure mezzi furgonati che sono elettrici o bifuel. Quindi ha impatto quasi zero. Ha impatto quasi zero. Questo per le nostre operation diciamo postali e le cosiddette attività collaterali al servizio postale, essenzialmente il servizio per esempio che si fa di vetturaggio agli uffici postali. Certo. Che succede se su questa linea si progetta invece un'alternativa fatta di un centro di distribuzione che è periferico alla zona ZTL, quindi fuori dal centro, dove si possono condensare gli arrivi di merci di qualsiasi vettore, si può fare una riprogrammazione dei flussi, quindi andando a saturare anche i veicoli elettrici, quindi rendendoli più efficienti e soprattutto pianificandone anche i percorsi, tutto questo può portare degli enormi benefici. Quindi poco fuori dal centro dovrebbero esserci dei centri, delle grosse zone diciamo di smistamento, dove tutti convogliano le proprie merci e poi attraverso appunto mezzi dedicati, magari quelli elettrici che utilizzate voi, la distribuzione invece capillare nella zona diciamo a traffico limitato. Corretto, nella fase di sperimentazione noi abbiamo individuato già un centro che si trova nell'area di Sesto Fiorentino, quindi è non proprio centrale, in modo che i vettori quindi i trasportatori che provengono sia dalle zone periferiche che da fuori centro urbano di Firenze, mm-hmm, possano arrivare lì, possano scaricare e affidare a una piattaforma logistica che è gestita ovviamente da Poste con i sistemi sistemi di una delle società di gruppo, possono affidare le merci e di fatto continuare la loro attività di consegna al di fuori della zona a traffico limitato. Quindi questo, diciamo che questo comporta per loro effettivamente un grosso risparmio, perché sottrae tutto quel tempo, quell'onere soprattutto di entrare nel centro urbano, soprattutto con mezzi molto più grandi, molto più inquinanti, dover trovarsi, trovare piazzole di carico dove fare le operazioni e soprattutto varie diverse soste a seconda di quella che è la pianificazione delle consegne. Diciamo che vi prendereste carico di tutto quello che viene chiamato l'ultimo miglio, l'ultimo pezzettino di strada, dalla logistica al trasporto alla consegna. Assolutamente, ecco. Corretto. E in questo modo, se tutti aderissero, veramente in giro nella zona pedonale ci sarebbero solo pedoni e qualche furgoncino elettrico di Poste Italiane, così. Guardi, noi, nel migliore dei mondi possibili. Sì, nel migliore dei mondi e nel migliore dei casi. Diciamo che noi prendiamo spunto comunque da delle concrete realizzazioni che sono state fatte sia sul territorio nazionale, cito il caso di Padova o anche il caso di Parma, e soprattutto a livello internazionale. Non è che verrebbe scomparirebbero, diciamo così, i flussi logistici, ma si riesce ad efficientare e a ridurre quelli che sono il numero di viaggi di consegna. Le stime parlano di una riduzione che supera il 30-35% del numero di viaggi. Si riducono i chilometri percorsi perché si ottimizza, questo è un tema specifico di logistica, si ottimizzano le rotte e soprattutto si va a migliorare quello che nella logistica è il vero elemento cruciale, che è il fattore di carico, cioè oggi i nostri mezzi che entrano nelle città, nei centri città, i mezzi logistici, sono carichi al 20-25-30% della capacità. Mentre una pianificazione e un sistema come quello che noi proponiamo supera abbondantemente il 70%. Certo, ottimizzerebbe tutto. Quando partite, Leonardi? Guardi, nella nostra intenzione, stiamo con il Comune di Firenze spingendo su questo, vorremmo lanciare l'iniziativa operativa entro fine di quest'anno. È tutto, a domani!